Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. C'è una che può dire la sua sugli uomini e certamente lei può dirla un po' su tutte le cose, visto i suoi occhi sensibili, la sua voce intensa sulle cose della vita. Naturalmente l'avete riconosciuta, vogliamo fare lo stesso questo gioco dei tre aggettivi? Giusto un'istantanea, se tu dovessi, lo so, è complicato. Dunque, tre aggettivi. Orgogliosa, e non nell'accezione del pregio ma del difetto, perché combatto con l'orgoglio da tutta la vita, perché credo che c'è una demarcazione, no? Oltre la quale c'è una linea di confine, oltre la quale l'orgoglio diventa ottusità. E è un po' è vero questo, non vorrei dirci che... E a volte mi incaponisco, no? Proprio, e faccio fatica e combatto perché è una cosa del mio carattere che non mi piace. Beh, autocritica mi sembra più onesta. Onesta, questo mi sembra di poterlo dire. Sì, perché hai appena riconosciuto un tuo limite. Non so, un altro aggettivo. Sai, definire se stessi è sempre un po' antipatico. Me ne rendo conto. Forse a volte... affronto le cose a volte con superficialità. No, non ci credo. No, ascoltami, non nelle cose che riguardano i sentimenti o le persone o gli esseri umani. Le cose, comincio le cose e non le finisco. Tipo leggere un libro? Un libro in genere è una cosa che porto fino alla fine. Ma anche le cose che voglio imparare, no? Magari voglio imparare, che so, a suonare la chitarra. Comincio e poi sono attratta da mille altre cose. Sei distratta. Sono distratta, quindi... le comincio e non le finisco mai. Ci sono tante cose che mi appassionano ma poi non portano a termine niente. Forse perché sono troppe, no? Io direi sì, questo. Forse perché sono tanti stimoli e... esatto, sono curiosa di troppe cose e quando si butta l'occhio in tante cose la curiosità spazia così tanto, alla fine tu non approfondisci niente, fai di tutto un po' ma niente con... Vabbè, te la buono come superficialità, non è esattamente questo, perché poi darebbe un'accezione di te. E allora in concludenza bravissima, sono in concludenza che è meglio, perché tu non lo sei per niente superficiale e naturalmente lo sapete, la conoscete, Fiorella Mannoia. Insomma, diciamo che è pleonastico presentarla. E la canzone che sentivamo era a proposito degli uomini e viene dalla tua ultima fatica, che è il movimento del dare. Io sai che trovo, Fiorella, un po' fuori moda questo titolo, movimento del dare, visto che è tutto un prendere e avere. E quindi, come tutte le cose un po' fuori moda o che sono un po' out, è rivoluzionario anche il senso di questo. Anch'io lo penso, perché per questo l'ho scelto. L'ho scelto perché è tratto naturalmente da una canzone di Franco Battiato, sì, che si chiama appunto Il Movimento del Dare. Lui è stato ispirato dallo sbocciare delle rose, no? Che da bocciolo diventano fiore e quando si aprono in un movimento che è un movimento appunto di generosità, ti regalano appunto bellezza, colore, profumo e si espongono un po' con le tue mani sulla copertina. Esatto, belle, io ho fatto, no? Poi mi sono lasciata fotografare in questo atteggiamento con le mani, proprio in atteggiamento di dare, invece, proprio per il motivo che lo stavi spiegando tu prima, che l'hai colto perfettamente, proprio perché è fuori moda, proprio perché siamo in un periodo storico di tale chiusura, di tale paura, no? Di egoismo, si tende più a prendere appunto che a dare, che a concedere, che a darsi anche, che un titolo come questo, in un momento come questo che stiamo vivendo, è un titolo appunto, direi, nel senso più acquoso del termine, rivoluzionario. Sì, e perché poi il senso, il cuore di questo album per l'appunto sono i sentimenti. Poi ritorniamo su questa cosa, però per capire come Fiorella Mannoia è arrivata a questo e quello che è diventato, ripercorriamo così molto brevemente per grandi tappe, no, la tua storia. Per esempio, io non so quanti sappiano, a parte che tu sei di Roma e questo lo sappiamo, quanti sappiano, anche questa è una cosa che diversi sanno, ma per un po' è appartenuto un po' al mito, sarà vero o non sarà vero, che tu hai iniziato come stunt girl. No, è vero. Con tuo padre e con tua sorella e tuo fratello. Guarda, tutti andavamo a cavallo a casa nostra, meno mia madre. Per cui è stata una grande passione questa dei cavalli. E continui ad andare a cavallo? Purtroppo no, è un po' di tempo che non ci vado, perché i cavalli non li abbiamo più, perché chi ama andare a cavallo poi non si accontenta di andare nei maneggi così con dei cavalli che non si conoscono, per cui è stata un po' abbandonata. È una passione che conservo sempre dentro di me, però la più vita poi ti porta a fare altre cose. Diciamo che non è proprio un inizio, non è che io abbia iniziato così, è che in un momento della vita mi hanno chiamato a fare questo strano mestiere, per cui una volta, due volte, tre volte era diventato, mi chiamavano continuamente per sostituire una o l'altra attrice. Spesso Monica Vitti, no? Spesso Monica Vitti, però anche Candice Bergen, cioè hanno fatto per un breve periodo della mia vita questo strano mestiere. Che si può fare solo in negli anni dell'incoscienza, naturalmente. Quindi eri una spericolata anche? O? Beh, un po' sì. Mi sono sempre piaciuti, insomma, mi è sempre piaciuto un po' il rischio in generale. E poi una parentesi che si è aperta e si è chiusa. Poi sai, i giornali ne hanno fatto anche più di quanto quasi in realtà, capito, quasi leggenda. Molto più di quanto in realtà poi non fosse, ecco. E quello che dicevo, che in realtà molti non sanno, ecco, piano piano stavo arrivando a questa cosa, è che tu hai esordito al Festival di Castrocaro come cantante nel 1968 con una canzone di Adriano Celentano. Esatto. Sì. Che era Un bimbo sul leone. Sì. Come sì. Mai Celentano ti ha fatto? Beh, io con questa voce un po' tendenzialmente, che tendenzialmente scende verso il basso, che era una voce che si avvicinava più a una voce maschile che a una voce femminile, non ho mai avuto come modelli le donne, perché avevano un'estensione, un modo di cantare alla quale io non arrivavo e non arrivo neanche oggi. Alla quale non arrivo neanche oggi, per cui ero tendenzialmente portata a sentire gli uomini che cantavano e non le donne. Cantavo sempre canzoni di maschi, ho cantato appunto con toni quindi più bassi. Più bassi. E beh, ero piccola. Quella è una canzone, peraltro, molto strana di Adriano Celentano. Non so perché scelsi quella, mi piaceva quella canzone lì. La scelsi io poi, tra le più astruse, però è veramente complicata. E come avvenne il vostro incontro? Come mai aveva scritto questa canzone? Ma no, quella non era una canzone sua. Ah. Io non lo incontrai affatto. È semplicemente scelto di esordire. Mi si presentò a questa occasione e mi dissero quale canzone volevi cantare, io scelsi questa. Non mi chiedere perché, perché sono passati troppi anni. Ma andò bene, andò bene. Mi possa ricordare. Beh, bene, troppo giovane ero. Poco più di 20 anni, no? Quando ho fatto Castrocaro? Sì. No, ne avevo 14. Ah, 14? Sì. Allora vedi, avevo fatto con la tua età un calcolo. Ne avevo 14, quindi. Per cui sai, sono quelle cose lì, fai quelle cose proprio. E certo. Che ne sai. Non era proprio lo zecchino d'oro che volevi fare. No, ma non sai neanche che cosa vai a fare, no? Poi oggi sono molto più scaltri, sono molto più abituati i ragazzi di oggi. Alla televisione, ai mezzi di informazione, alle telecamere. C'era un altro candore una volta, no? Quell'età, che ne sapevo ingenuità. Io mi hanno buttato su quel palco, cantavo e non avevo coscienza neanche di quello che facevo. Ma quello è stato l'inizio e poi piano piano invece Fiorella è diventata Fiorella Mannoia. Storielle. Storiacce. Ascoltatrici e ascoltatori, sempre Roberta Giordano qui con voi a Storielle. Sono, diciamo, al cospetto di Fiorella Mannoia, in tutta la sua grandezza, tutta la sua solarità. E stavamo ripercorrendo però per grandi tappe la tua storia, la tua biografia, perché è sempre interessante anche per chi ascolta e per chi ama una cantante come te sapere anche, no, come sei arrivata. Quindi abbiamo parlato dell'inizio come stand girl, poi al Festival di Castrocaro con questa canzone di Celentano, che eri piccolissima, 14enne, poi il Festival di Sanremo, no, nel 1981, con Caffè Nero Bollente, molto, molto estrosa, stravagante, diciamo, in quella versione. Poi nell'84 una svolta, Come si cambia, una canzone bellissima. E poi, se vogliamo andare velocemente, i primi due incontri importanti con Enrico Ruggeri, Quello che le donne non dicono, è diventato un tuo cavallo di battaglia. E poi con un cantautore che io amo moltissimo, il mio preferito, e credo che anche tu di aver capito sei più in simbiosi con lui che con altri, Ivano Fossati, no? E se tu dovessi dire, dopo di questo, le cose che ti hanno portata, le grandi tappe della tua vita umana. Beh, Come si cambia ha segnato proprio un punto di svolta, perché Come si cambia ho imparato, ho potuto constatare che la mia voce trasmetteva emozioni quando aveva un testo che ne conteneva, che che aveva un contenuto. Proprio perché, come dicevi prima, la tua voce non ha magari questa estensione, no. I tuoi non sono vocalizzi, gorgheggi, no. È una voce che emoziona. Sì, no? È evocativa, no? Evocativa. Una voce che drammatizza, tende a drammatizzare, per cui quando c'è il testo lo consente, io riesco a esprimermi. A fare la grande interprete, esatto. No? Perché sei, tu hai colto forse questa eredità della grande interprete della classica canzone d'autore, della migliore canzone d'autore. Ti senti un po' erede di Mina e Vanoni, con ovviamente un'altra sì, età. Sì, forse no? Sono più vicina a Vanoni piuttosto che a Mina, proprio perché la mia vocalità somiglia più alla sua piuttosto che all'altra. Beh, comunque... Quindi la svolta, la svolta è lì ho capito, ho seguito la mia voce, lei mi ha condotto fino a dove sono oggi. Naturalmente hai citato Enrico Ruggeri, che è stato forse la porta che si è aperta alla canzone d'autore. Dopo di lui l'incontro fondamentale con Ivano. Penso che Ivano abbia caratterizzato tutto il mio percorso, sì, artistico. Ancora anche in quest'ultimo album, anche no? In quest'ultimo album, sì, sì. Forse con quello che mi sento più in simbiosi, perché ha un modo di scrivere con la sua estensione vocale che proprio si equivale alla mia, e allora come scrive per sé, scrive esattamente, si adatta bene alla tua, quello che fa. Io quando le canzoni di Vanno vado in studio e le canto in pochissimo tempo, e anche i contenuti meravigliosi comunque, no? Esatto, per cui è forse quello con cui in questi anni mi sono sentita più in simbiosi. E poi però come non citare tutti gli altri, cioè dovrei citare tutti, un lungo elenco, no? Un altro incontro importante è stato quello con Francesco De Gregori, che è stato uno dei miei punti di riferimento nella vita, proprio insieme a De André prima di lui. E la collaborazione con Francesco è stato un sogno realizzato, anche quello. E poi tutti gli altri, insomma, io devo, il mio lavoro deve, per almeno per metà e per 50%, allora le collaborazioni che ho avuto. Sicuramente non avrei potuto fare quello che ho fatto senza le canzoni che ho cantato. Tu hai detto una volta, ho letto, che a volte c'è questo mistero di come gli uomini siano capaci a volte di scandagliare l'animo femminile. Ah sì, no? Questo è sempre misterioso. È vero. Non mi capita spesso. Infatti anch'io lo trovo una cosa strana, però effettivamente con gli autori che scrivono per te questo succede. Non mi capita spesso, mi capita raramente, anzi io mi raccomando sempre, quando avvicino giovani autori oppure autori che non hanno mai collaborato con me, dico sempre: scrivete per voi, non vi incaricate di scrivere con la mentalità femminile, tanto i sentimenti sono sentimenti, sono universali, non conoscono sesso. Se sono le cose sono emozionanti, i sentimenti sono alla portata di tutti, per cui non pensate a scrivere per una donna, scrivete per voi. Perché la maggior parte delle volte, non in questi casi, naturalmente mi capitano canzoni che gli uomini scrivono per me con dei concetti che loro pensano femminili, ma che in realtà femminili non sono. È un malinteso. Sì, perché è normale, no? È difficile un uomo. Poi a volte capitano questi squarci che ti fanno rimanere un po' perplessi, perché dicono: uno deve amare le donne, le deve conoscere, le deve osservare, le deve sapere ascoltare per entrare... Così, in sintonia, no? Sintonia e scrivere queste cose qua. Mi capitò 20 anni fa esatti con Enrico, con quello che le donne non dicono. Mi è ricapitato con Luciano, con questa Ligabue. Con Ligabue, con questa canzone che mi ha stupito. Io posso dire la mia sugli uomini. E se tu dovessi dire adesso, con la tua storia anche personale, un qualcosa che hai capito veramente degli uomini, Fiorella Mannoia? Insomma, se si può dire quello che dice qualcuno mi è sembrato, solo sembrato, qualcuno l'hai sbagliato, l'ho conosciuto, qualcuno l'ho sbagliato, insomma non tantissimi, io non ho avuto poi un'esperienza così eclatante da poter essere un'espertona, diciamo. No, ma anche osservarli, però, semplicemente però... avere a che fare con loro. Cioè, diciamo che noi siamo degli esseri complicati, perché li vogliamo maschi, ma li vogliamo sensibili, però li vogliamo gelosi, ma non troppo. Se ti stanno troppo addosso, oh che palle, questo mi sta troppo addosso. Se sta troppo distante, dice: però vedi, non è, cioè, diciamo la verità, siamo un po' complicate noi stesse, per cui trovare un uomo che proprio risponde alle caratteristiche, un ideale, è molto difficile. Però anche loro hanno le loro belle pretese con le donne, o no? Ah beh, per forza, io... mamma, però compagna, però trasgressiva, però non troppo, perché sennò non diciamo cosa possa sembrare, tutte queste cose. Esatto, esatto. E quindi l'incontro è difficile. Io credo alla fine che gli esseri umani sono complicati. siamo proprio complicati, i rapporti umani sono complicati, perché sarebbe troppo... Stavo dicendo troppo bello, ma non è vero, è bello così. Proprio così, imperfetto. È bello così perché è imperfetto, perché sogniamo sempre di avere dell'altro e questo sogno e questa speranza ci accompagna per tutta la vita. Se no, se avessimo già tutto lì pronto davanti, ci fermeremmo. No, c'è una bella frase che dici in una delle canzoni dell'ultimo album, il titolo, lo ricordavo, Il Movimento del Dare, che è le parole d'amore non dette che spreco. Esatto. Ritornando un po' al nostro concetto iniziale, no? Che i sentimenti sono davvero fuori moda, sei quasi, possiamo usare gergalmente una parola che non amo molto, ma sfigato, quando ami, quando dai, quando senti, no? Perché va un po' per la maggiore il cinismo, un po' di distacco, il tenere l'altro alla corda. Sì, ma soprattutto ci si vergogna dei sentimenti, che è una cosa che invece è uno spreco, veramente, perché sono momenti che non ritornano più. E quante volte ci siamo trovati, no, a un passo dal dire alla persona che ti sa, che non è necessariamente un compagno, può essere un'amica, certo, un amico, la un madre, parente, una sorella. Una sorella, un fratello, eppure ci vergogniamo a volte di dire la cosa più semplice. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Chissà perché siamo un po'... abbiamo paura di metterci a nudo in questo modo. E citavi Ivano Fossati, ma poi in quest'ultimo album ci sono tanti altri cantautori, proprio per seguire questa scia della grande canzone d'autore, c'è Battiato, Ligabue, Tiziano Ferro, Giovanotti, Pino Daniele, ma invece questo è un incontro abbastanza inconsueto, per esempio con Tiziano Ferro, no? Sì, è inconsueto, è come quello anche con Lorenzo Giovanotti. Perché apparentemente siamo distanti generazionalmente, come modo di sentire, di scrivere, eppure è proprio questo che mi ha tanto stimolato, il mettermi alla prova con generazioni diverse, con scritture diverse, con generi diversi. Io credo che questo sia proprio l'essenza del nostro mestiere, il ripetere se stessi all'infinito è la morte del mestiere che facciamo, perché noi viviamo di stimoli, gli stimoli te li danno il confronto con gli altri. Devo dire che io l'ho imparato molto con questa esperienza brasiliana che ho avuto. Ah sì, onda tropicale, con no? Onda che tropicale. Nel 2006. Sono stata a contatto per tanti mesi e tanto tempo appunto con questi artisti brasiliani, che seppur diversi tra di loro, la cosa che li accomunava tutti è questo senso di leggerezza nei confronti del proprio mestiere e della vita in generale, il prendersi un po' meno sul serio, il volersi contaminare con gli altri, il cantare allegramente anche con persone che sulla carta sono distanti da te. È proprio il movimento del dare, questo. Esatto, no? questa esperienza mi ha cambiato molto. E oggi sono molto più serena, molto più divertita. Ma lo si vedeva che eri divertita anche nei concerti di Onda Tropicale, no? Sì, esatto. Questo omaggio ai grandi sì. cantautori brasiliani, esatto. Lo si vedeva da questo. Roma, tu... vivi a Milano da un da non vivo tanto, più a non Milano, vivi più no. a Milano, ecco, vivo così a Roma, questa, ormai sei ritornata alla tua anni. Città natale. Sì, sono tornata a casa. E tra Milano e Roma, quello che ti hanno dato, quello che la tua città, per esempio, Roma, che cosa rappresenta per te? Beh, dunque, innanzitutto voglio dire che sono stata molto bene a Milano. ho amato Milano e sono stata amata da Milano. Per cui non rinnego nulla. Diciamo che negli ultimi anni sentivo un po' che la città si chiudeva. E mentre Roma sbocciava, Milano si chiudeva. E ogni volta che andavo e tornavo a Roma vedevo una città viva, frenetica. Più calda. Sì, più calda, che calda ma proprio con tutti i quartieri che prendevano vita, quartieri periferici che non si attraversavano neanche per sbaglio. Oggi sono diventati quartieri pieni di vita, di locali. E questo era entusiasmante. Mentre qui, piano piano, sentivo Milano che piano piano si chiudeva in se stessa, si irrigidiva. E tornando a casa, un giorno mi sono detta, sarà l'età, ma qua si ritorna alle radici, no? Così giustificando Milano. E c'è una cosa sulla quale sei assolutamente intransigente, un tuo principio, quello proprio non si può prescindere. L'onestà. Io credo nell'onestà come valore assoluto. Che non è solo l'onestà, l'onestà anche dei sentimenti. Io ho sempre pensato che l'uomo deve somigliare alle proprie azioni. Non ho mai creduto al detto fai quello che ti dico e non fare quello che faccio. Questa è la cosa più orrenda che si possa pensare di un essere umano. Tu sei quello che fai e fai certo. quello che sei. Per cui credo che non si può prescindere. Questo vale per tutto, per i sentimenti, per i rapporti umani, per l'onestà dell'amicizia, l'onestà nel dell'amore, nel lavoro, in tutto. Credo che... E questo è un valore che si sta piano piano sfilacciando, no? L'uomo onesto, l'uomo per bene, oggi è considerato, come dicevi prima, uno sfigato, no? Oggi c'è l'elogio del furbo, di quello che... Molto nel nostro paese, no? Questo è molto italiano, no? L'elogio del furbo, quello che è arrivato in un punto, come c'è, non importa, l'importante è che ci sia arrivato. La cosa che ti dà maggior serenità, che ti permette di continuare a lavorare così con successo, col sorriso, con solarità, che cos'è? Appunto anche questo ritorna nel discorso dell'onestà. Nell'onestà di fare le cose anche per gli altri. Cioè nel senso che ancora per me questo è un mestiere in cui mi piace dare, no? Anche ricevere, perché per carità non sono ipocrita, è un mestiere che mi permette di vivere e di vivere bene, però non perdo mai il punto, non perdo mai il contatto con la realtà. Io sono una privilegiata, io continuo a pensare di essere una grande privilegiata, faccio un mestiere che mi piace, che mi permette di vivere bene, sento il consenso della gente, devo alla gente tutto quello che ho. Per cui questo contatto non lo voglio perdere, cioè non voglio perdere il senso della realtà, il senso pratico della realtà. Questo mi permette ancora di fare questo mestiere con onestà, con voglia, con passione, con la volontà appunto di darmi il movimento del dare fino a che ce la faccio. E naturalmente lo si sente in quest'ultimo album, come dicevamo, il movimento del dare. Questa che vedi, qui non è il caffè che già hai bevuto, ma è la lampada di Aladino. Ah. Sì. E dentro c'è il genietto che aspetta da Fiorella Mannoia di sapere, dopo tutta questa felicità, queste cose che hai ricevuto, che dai, che continui a dare, l'entusiasmo, la passione, la musica, che cosa ancora chiederesti per te? Io non chiedo mai. Sei la donna che non deve chiedere mai. No, non chiedo mai perché ho già ricevuto tanto. Spero di ricevere solo quello che mi merito. Né più né meno. E te lo auguriamo allora. Grazie Fiorella Mannoia. Grazie a voi. L'allegria ci passa accanto, trasordando.